naturale, assai dannoso, ma... e poi nello spettacolo racconto, tutto è inserito all'interno di una storia d'amore tra due personaggi, un giornalista d'inchiesta e una ragazza che studia canto lirico a Taranto, appunto appassionata della Traviata di Violetta. Casale Monferrato è una delle tappe del tuo viaggio? Certo, sì, mi ero completamente dimenticato, invece uno degli episodi secondo me più belli poi del testo è quando recito il ruolo di Romana Pavesi, che è un po' la martire per eccellenza. A Casale Monferrato c'era questa fabbrica Eternit aperta nel 1906 e Romana Pavesi, il marito Mario Pavesi, ha lavorato dal 1957 al 1980 in questa fabbrica, è morto di mesotelioma pleurico. E questa Romana Pavesi fa uno dei racconti più belli, perché muore, alla signora Romana muore il marito, la sorella libera, la cugina Anna, il nipote Giorgio e alla fine nel 2003, il 25 agosto del 2003, muore anche la figlia Maria Rosa di mesotelioma pleurico, che è appunto il cancro che colpisce soltanto chi inala amianto. Hai ragione a Casale lungo il Po, è una delle storie più significative che racconto, e per giunta si vede anche un video della signora Romana che racconta per appunto quello che ora ti ho detto. È uno spettacolo, l'ho fatto in forma di lettura a Milano e a Genova e ora a Roma l'ho fatto per una settimana, tornerò a Roma visto che il pubblico l'ha seguito con molta, il teatro è stato sempre pieno, e poi vado in Liguria, in Calabria, di nuovo nel Lazio, in Basilicata, in giro per l'Italia. Ecco, il tuo modo di lavorare è molto simile, diciamo, a quello del ricercatore, quindi tu lavori sulla documentazione, poi anche su nuove testimonianze, quindi arricchisci il testo teatrale anche su un lavoro di ricerca. Sì, diciamo che la cosa che mi piace di più è partire ovviamente sempre da proprio dall'osservazione della realtà, andare tra le cose più belle che ci può essere per giunta per un essere umano è andare a conoscere persone a rischio, persone che hanno sofferto, persone che hanno sognato e oggi hanno degli incubi. Pertanto prima di tutto vado proprio con i piedi sui luoghi e mi vado a rendere conto sempre con una telecamera o con un registratore, e dopo aver accumulato tutta una serie di registrazioni cerco di riportare anche le emozioni, perché poi credo che il teatro, no, come codice, sia un codice che parla di più attraverso l'emotività, ragion per cui quelle informazioni che per giunta assolutamente inedite, molte di queste informazioni devono, perché la stampa, soprattutto quella che va per la maggiore, i mass media, diciamo che su alcune problematiche ambientali non è trattano, è tabù totale. Però diciamo che mi piace fare così, prelevare tutte le informazioni possibili, però in mezzo a queste informazioni poi una signora come Romana Pavesi che ti racconta quello che le è capitato nella vita è così forte da un punto di vista emotivo. Per esempio cito quando il papà di Maria Rosa, il marito di Romana Pavesi, portava in chiesa a via Ogero numero 63 la moglie e la figlia piccola dice che andava a cavalcioni sulle spalle del papà e passavano di fronte alla fabbrica stracolma di amianto e alla bambina piaceva passare sotto i gelsi e dice che si abbassava sotto i gelsi e pigliava i gelsi che erano neri ed era a cavalcioni del papà e gli faceva vedere sti gelsi neri che la polvere d'amianto aveva trasformati in bianchi, e li faceva vedere al padre e diceva: guarda papà, la neve, e se li mangiavano sti gelsi, non sapevano della pericolosità dell'amianto, li pulivano alla meglio, e dice che le bocche diventavano viola per i gelsi neri e bianche per l'amianto, era una maschera, e dice che la mamma li guardava felici perché era un'unione totale tra padre e figlia. Avete ascoltato la seconda edizione di Italia in Controluce, siamo su Facebook, la pagina, il gruppo, su Twitter, abbiamo anche un blog su radio24.it, insomma avete tante possibilità per contattarci, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.